Il diario di Q. Viterbo, 5 aprile 1547. Movimenti impercettibili. Uno strisciare lento di insetti, che puoi cogliere soltanto se fissi lo sguardo e ti lasci incantare dal sottile incresparsi dei fili d'erba. Difficile immaginare se vi sia un ordine segreto in quel brulicare, un'armonia, un fine. Devo seguire l'intuito, scoprire dov'è il formicaio, individuare i percorsi che lo riforniscono. Sono in partenza per Milano. Ho scritto a Carafa che seguivo una pista per scoprire i responsabili della nuova diffusione del beneficio di Cristo. È la verità. A Viterbo non c'è più molto da fare ormai. Qualcuno sta avvantaggiando gli spirituali a loro stessa insaputa, diffondendo il libro in lungo e in largo. Cosa sperano di ottenere? Adesioni, aiuto? Scatenare una rivolta filoriformatrice? È essenziale capire chi sono costoro, scoprire cosa vogliono. Milano. Gli inquisitori di lassù hanno fermato un giudeo convertito, con l'accusa di contribuire alla diffusione di un'opera eretica, il beneficio di Cristo. Pare che sia veneziano, originario del Portogallo, tale Giovanni Miques. Che cosa c'entrano i marrani in questa storia?